Radio Doc. Buonasera da Marta Cagnola. Questa sera una puntata speciale dei nostri Radio Doc, sempre in collaborazione con Fox, questa sera con il canale Cult. Cult che ha organizzato al Torino Film Festival la quarta edizione del premio Cult Il cinema della realtà. Evento speciale nella rassegna l'anteprima assoluta in Italia di Rip Remix Manifesto, il film documentario del regista Brett Gaylor, celebre videoblogger canadese. Il documentario domani sera alle 21 sarà trasmesso su Cult, ma noi possiamo scoprirlo già oggi e fare la conoscenza con il protagonista, un personaggio singolare che si chiama Greg Michael Gills. Proviamo a fare un gioco. Sapete dirmi di chi è questo pezzo? Se avete risposto ai Jackson 5, avete sbagliato. Ritentate. Se avete risposto ai Queen, avete sbagliato di nuovo, perché l'autore di questo sound è il mio artista preferito, Girl Talk. Girl Talk è il mago dei mashup. Il suo strumento è il computer. E le note che riproduce sono campionate da migliaia di classici della pop music, tagliati e riarrangiati per dar vita a nuovi suoni. E parliamo di RIP Remix Manifesto con Davide Oberto, responsabile concorsi italiani e documentari internazionali del 27esimo Torino Film Festival. Buonasera. Buonasera a tutti e tutte. Davide, intanto, come mai è stato scelto come evento speciale questo RIP Remix Manifesto? Sentiremo tra poco che ha un'idea molto particolare, non solo della musica, ma anche del cinema. Come mai proprio RIP Remix Manifesto? Beh, è nato un po' dall'interazione che abbiamo avuto con Cult, nel pensare a come mischiare il Torino Film Festival con Cult, la ricerca che stiamo facendo sul documentario qua al festival da anni ormai. Diciamo è stato un mashup anche questo in qualche modo. Ma adesso facciamo conoscenza anche con il regista. Brett Gaylor si presenta proprio nel suo documentario. Questo è un film sulla guerra. Una guerra di idee. Il campo di battaglia è internet. E io la vivo come una questione personale, visto che la mia è l'epoca di internet. Sono nato in un isolotto al largo della costa occidentale del Canada. I miei genitori volevano scappare dal mondo, ma io, come tutti i bambini, volevo l'esatto contrario. Volevo ristabilire il contatto. Fortunatamente i creatori di internet la pensavano proprio come me. Internet mi ha permesso, dall'isola in cui vivevo, di raggiungere il resto del mondo e comunicare le mie idee a milioni di altre persone. Così è nata la generazione mediatica, capace di scaricare la cultura mondiale e trasformarla in qualcos'altro usando un nuovo linguaggio, il remix. E i detentori della cultura che mixiamo? Rappresentano il passato. E ci hanno dichiarato guerra. Per questi signori le idee sono proprietà intellettuale, vincolata fino all'acquisto. E usano enormi capitali, lobby corporative e azioni legali per tutelarla. Chiameremo questo sistema copyright. Il fronte opposto, favorevole a una condivisione di idee, è invece il copyleft. Insieme abbiamo creato un manifesto che recita più o meno così. La cultura è sempre costruita sul passato. Il passato cerca sempre di controllare il futuro. Il futuro sta diventando meno libero. Per dar vita a società libere, bisogna limitare il controllo del passato. Eccolo qua, il manifesto che è stato scritto da un altro dei protagonisti del documentario, che è l'avvocato Lawrence Lessig, ed è un po' lo stile di vita di Greg Michael Gills, cioè Girl Talk, il DJ protagonista di RIP Remix Manifesto. Oberto, che ne pensa? Penso che funziona fino a un certo punto, a dire la verità. È controverso, nel senso che è vero che non bisogna farsi incatenare dal passato, è vero anche che però il passato bisogna conoscerlo. Quello che a me piace del manifesto e del mashup è l'aspetto ludico e inventivo e legato all'immaginario e all'immaginazione. Dunque, costruire nuovi linguaggi con altri linguaggi è interessante e normalmente produce cose nuove e inattese. Quello che meno mi piace è forse una certa ingenuità rispetto al rapporto col passato. Abbiamo sentito che l'autore del manifesto è l'avvocato Lawrence Lessig, che ora ci parla di cinema. Ma cosa c'entra il cinema con il DJ Greg Michael Gills, con il remix, con l'arte del mashup? Sentiamo. Sapete, sono un grande fan di quest'uomo, di Walt Disney. Sono un grande fan delle sue creazioni, perché rappresentano un perfetto esempio di come la cultura si costruisca sul passato. Walt Disney, forse meglio di chiunque altro, ha preso delle opere appartenenti al dominio pubblico e le ha rinnovate, rendendole adatte alla sua epoca. La sua opera ha sempre favorito il dialogo tra le culture, perché è un'espressione, mediante il remix, di creazioni prese dal passato. Era un artista mashup. Steamboat Willie, Willie del vapore, era un cortometraggio basato su Steamboat Bill Jr. E nelle note sulla partitura, Walt Disney suggeriva al suo staff di rubare le note del film di Buster Keaton. Straordinaria questa idea di Walt Disney come primo artista del mashup. E non è così sbagliato, Berto. Tra l'altro adoro anch'io Walt Come non Disney. amarlo, insomma. Per Devo cui dire, diciamo bisogna l'aspetto. raccontare che in questo documentario ci sono anche proprio delle immagini che ci illustrano come alcuni elementi iconografici di Walt Disney in realtà appartengano al passato. Nella nostra memoria c'è ad esempio Pinocchio, che lui ha ripreso pari pari anche come illustrazioni. No, ma poi appunto, ritorniamo a quello che si diceva prima, il rapporto col passato deve essere molto consapevole per poterci giocare. Walt Disney senz'altro aveva un rapporto molto consapevole col passato e usava il passato in qualche modo per deturnarlo, cioè usa un linguaggio riconoscibile per far uscire altri significati, questa è la forza di Walt Disney e del suo disegno. Tutto questo per quanto riguarda Walt Disney finché era in vita, ma cosa succede poi quando muore Walt Disney? Dopo la morte di Walt Disney, la Disney Corporation cambiò radicalmente. L'obiettivo non era più quello di creare ispirandosi al passato, ma di controllare le creazioni Disney per assicurarsi che nessun altro potesse trarne ispirazione. Volete sapere perché Happy Birthday non è ancora patrimonio pubblico? Perché dopo la morte di Walt Disney, la Disney Corporation chiese al presidente degli Stati Uniti il regalo di compleanno più prezioso della storia. Oggi un ospite d'onore ha varcato la soglia della Casa Bianca ricevendo un'accoglienza tutta speciale. E perché no? Nel 1998, il giorno del 60° compleanno di Topolino, la legge sul copyright è stata modificata per concedere all'impero Disney il controllo del suo personaggio a tempo indeterminato. I termini del copyright sono stati estesi a tutta la vita dell'autore e ai successivi 70 anni. Alle major è stato concesso un termine di 95 anni, quadruplicando così i 14 anni stabiliti originariamente. E non riguardava solo Topolino. Tutto ciò che prima poteva essere remixato non è più di libera fruizione. Oggi, dunque, per realizzare un'opera attingendo al pubblico dominio, possiamo usare solo le creazioni precedenti al 1923. Radio Doc. Ritorniamo in compagnia del nostro documentario RIP Remix Manifesto di Brett Gaylor, evento speciale della quarta edizione del premio Cult Il Cinema della Realtà. Siamo ancora in compagnia del nostro ospite Davide Oberto, responsabile concorsi italiani e documentari internazionali del 27° Torino Film Festival, ma ritroviamo anche il protagonista del documentario, il DJ Greg Michael Gills, in arte Girl Talk, maestro del remix. Lo ritroviamo insieme a Mary Beth Peters dell'Ufficio Americano del copyright. Ecco cosa succede quando si incontrano. Ricordate Girl Talk? Lui è un esperto di proprietà intellettuale. perché di giorno è un ingegnere che testa campioni biologici. Di notte, invece, testa la reazione della biologia umana ai dati musicali. La gente ha difficoltà a convincersi che il campionatore sia uno strumento. Lavoro negli uffici del copyright da più di 40 anni. Dovete sapere che non ho nemmeno il computer a casa. Non ho mai fatto un mashup e non ho mai scaricato una canzone sentita alla radio. Posso farle ascoltare un mashup? Certo. In pratica, salvo queste sequenze in una nuova finestra. Elvis Costello Radio. Evidenzio l'attacco delle percussioni. Ne inserisco un quarto di secondo qui e poi un ottavo di secondo qui, che è la metà di quello. Poi un altro quarto di secondo e poi arriviamo a un secondo completo e dovrebbe esserci il ritmo. Mettiamo un ottavo di secondo di silenzio, poi due volte, che significa un quarto, e poi ancora un quarto. Oddio! Ricopio la stessa battuta. Un vero pirata, giusto? Quella musica non è sua, si limita a riarrangiarla. Ora non ha nulla del pezzo originale. Più o meno è come prendere una vecchia canzone dei Beatles, riarrangiarla, aggiungendoci nuovi suoni, come quello di una chitarra distorta, ad esempio, e dire che l'hai fatta tu. Prende un pezzo esistente e lo trasforma in qualcos'altro. Questo crea un numero infinito di domande sul copyright. Sarebbe un'ottima domanda d'esame per un corso sul copyright. La risposta è, come al solito, dipende, sia da chi possiede i diritti, sia da quanto è arrabbiato il possessore. Insomma, per la signora Mary Beth Peters, quello che fa Greg Michael Gills è praticamente un'eresia. Le case discografiche, ovviamente, sono d'accordo con lei, sono sulla stessa posizione. La punta dell'iceberg è una tecnologia chiamata Digital Right Management, gestione dei diritti digitali. Usando questa tecnologia, le case discografiche e cinematografiche possono impedirvi di copiare CD, DVD e file in genere sul vostro computer. Invece di lasciar decidere alla legge cosa possiate o non possiate fare, saranno questi software a decidere per voi. Io lo definisco modello economico-cistico. Fino ad ora l'uso dei mezzi di comunicazione ha avuto un flusso libero e agevole. Ma con l'avvento del nuovo regime, quest'uso dovrà passare da un piccolo, doloroso filtro. Ogni volta che piggeremo un bottone, ci scuciranno 3 centesimi per il nuovo diritto al riascolto, o il diritto al mettere in pausa, o il diritto di ascoltarlo dove mi pare. Da una parte il problema dei DRM, dall'altra quello della pirateria. Quindi è anche difficile capire quanto debba essere tutelata in questo senso la proprietà intellettuale, Oberto. Credo ci sia da ragionare molto, nel senso che io sono d'accordo con Brett Gaylor e il DRM è come dire, una sorta di poliziotto in più sui nostri computer. E trovo intollerabile questa necessità di controllare tutto ciò che la gente vuole usufruire, insomma, vedere, ascoltare. E dopodiché credo ci sia dei passi da fare, nel senso che è giusto tutelare la proprietà intellettuale, è giusto anche permettere, come dire, non siamo più nel 700, non siamo neanche più nel 900, c'è internet, ci sono modalità di fruizione diverse e forse su quelle bisogna ragionare senza gli stessi steccati che c'erano un secolo fa. Non lo so, per fare un'ipotesi, vedere un film sul computer non è la stessa cosa che vederlo in sala. Ora, forse vedere un film sul computer anche un po' piratato magari ti fa venire voglia di andarlo a vedere appena si può in sala, e quindi forse bisogna un po' sfruttarlo meglio, il mezzo, e non insomma, non porre troppi steccati e troppi poliziotti in più, insomma. E a proposito di polizia, gli amici di Greg Michael Gills e la sua fidanzata sono piuttosto preoccupati. Questo sono io al liceo, senza maglietta, al joystick show, bei tempi. Gli dico sempre di non toglierla. La maglietta poco male, ma i pantaloni... Ma faceva troppo caldo lì. Eravamo a nostro agio e ci siamo messi comodi. Già, ma te l'abbiamo già detto. Sei un ragazzo di talento. Perché toglierti i pantaloni? Glielo dico sempre. Non lo faccio sempre, lo sai. Tolgo la maglietta quando fa troppo caldo. E gran parte delle volte è la gente a strapparmi i pantaloni. E si diverte talmente tanto che si sfoga sui miei pantaloni. Non posso farci nulla. Molti altri si spogliano, ve l'assicuro. Fa parte dell'atmosfera. Non lo sapevo. Eh già. Credo sia un ragazzo molto creativo e promettente. Ma siamo molto preoccupati per il copyright. Non credo che... Non sei obbligata a parlarne solo perché c'è la telecamera. Scusa se dico ciò che penso. Abbiamo paura che finisca in tribunale e poi lo sbattano in cella. Sappiamo quello che fa e per la legge la sua è violazione del copyright, lo sappiamo bene. Cerchiamo di sdrammatizzare come possiamo, ma siamo preoccupati. La gente sta diventando sempre più estrema nel proteggere le proprie creazioni. Ma ben presto capirà quanto sia importante condividere le idee. Per quanto riguarda Internet, è stato creato anche un sistema per combattere il copyright, del quale abbiamo parlato. Si chiama Creative Commons. Ecco com'è venuta questa idea. Lawrence Lessig ha visitato il Brasile qualche anno fa e ne ha tratto ispirazione, immaginando un sistema globale alternativo al copyright. Creative Commons. Creative Commons nasce per liberare le culture. Un'autorizzazione in virtù della quale un musicista concede il diritto di campionare, manipolare, trasformare, ricreare e remixare la sua opera. E il luogo in cui il dialogo può finalmente avere inizio è proprio il Brasile. Io vengo dal paese che professa il culto della libertà, un paese disorientato. Voi siete nostri fratelli in questa battaglia e dovete aiutarci a ritrovare ciò che abbiamo perduto. La battaglia del Creative Commons, la battaglia per poter remixare le immagini, remixare le musiche, insomma la battaglia per superare anche attraverso internet un vecchio concetto di proprietà intellettuale. Come diceva lei, Oberto, anche dal punto di vista creativo, anche appunto creativamente, perché è possibile trovare nuovi modi di espressione e anche nuovi modi per far conoscere le proprie opere. Io lavoro in questo campo da tanti anni, ormai più di 10, insomma, io sono molto d'accordo col Creative Commons, nel senso che sono d'accordo con tutti quei mezzi e quelle aperture che permettono di far conoscere il proprio lavoro, la propria immaginazione, dunque la propria musica, le proprie immagini. Sono anche però d'accordo sul fatto che qualcosina, chi fa l'artista qualcosina deve metterlo in pancia, insomma, per cui mi piace che ci siano aperture e spazi che scardinano, come dire, il modo dominante con cui si produce cinema e musica. Bisogna ancora pensare come tutelare poi il lavoro delle persone, però. Ovviamente tutto questo senza andare proprio agli eccessi che abbiamo visto negli ultimi anni, e tutto questo ce lo racconta sempre il documentario di Brett Gaylor. Il concetto di proprietà intellettuale è accessorio. Una volta accertato il fatto che le idee possano essere più redditizie del petrolio, dell'oro e persino della terra, non esistono limiti all'estensione del concetto di proprietà. Nel 1980 la Corte Suprema americana ha dichiarato che gli organismi viventi possono essere brevettati. Poco dopo la dichiarazione, un imprenditore americano brevetta l'ayahuasca, una pianta della foresta pluviale amazzonica. In Amazzonia la pianta era usata da generazioni come rimedio medicinale e nelle pratiche religiose. Quando persino la vita è diventata brevettabile, la corsa ha avuto inizio. Il XX secolo ha segnato l'epoca della proprietà terriera. Il ventunesimo sarà il secolo della proprietà intellettuale, delle idee. Eccolo qui, il secolo della proprietà intellettuale, delle idee, l'eccesso della tutela invece della proprietà intellettuale. Questo viaggio in Brasile che fa Brett Gaylor insieme a Lawrence Lessig per cercare di trovare delle idee nuove e un modo per trovare una sorta di, appunto, via di mezzo tra la possibilità di creare e la possibilità di utilizzare in maniera creativa le idee altrui. Su questo sono perfettamente d'accordo. È chiaro che si sta aprendo siamo in un territorio un po' di frontiera tra, appunto, tra un secolo e l'altro, tra modi di produzioni di non solo artistici ma anche nel senso marxista del termine, e quindi bisogna trovare delle strade nuove per diffondere le idee e per far sì però che queste idee abbiano valore. E una delle difficoltà di internet, secondo me, è che spesso parifica troppo le idee, non lasciando gli strumenti per discernere quali idee sono valide e hanno valore e quali no. E su questo, secondo me, c'è ancora molto lavorare. Io saluto il nostro ospite, che è stato Davide Oberto, responsabile dei concorsi italiani e documentari internazionali al 27esimo Torino Film Festival. Allora, l'appuntamento sarà per il prossimo Torino Film Festival e speriamo per un altro premio cult, il cinema della realtà con nuovi documentari. A presto! A prestissimo! Ed è tutto per questo Radio Doc speciale di questa sera. La settimana prossima torneremo in compagnia di History Channel. Io ringrazio Roberto Scaltritti in regia, ma prima di chiudere, che fine ha fatto il nostro Girl Talk, il nostro Greg Michael Gills? Sentiamo. Siamo una sola cosa, amici! Il mio album non sarebbe mai esistito senza internet e MySpace. Sembra che la battaglia per la musica del futuro sia vinta in partenza. Perché ora Greg sale sullo stesso palco delle pop star che remixa. Facciamoci possedere e godetevi la musica!